mi han detto, così senza parole. Di tua madre, tuo padre, hai detto un amico, del loro volere, della nostra sorte. Mi hai chiamato un mattino, mi hai chiamato assassino, ma di Giuda il bacio hai dato un vecchio Arlecchino. Ho inscenato la morte e il mio funerale, uno stupido gioco come un sogno ferale. Di pietà non si vive, ma di speranza si muore. Una virgola antica, un antico dolore. Ma di speranza si muore. Una virgola antica, un antico dolore. Mi hai chiamato un mattino col sole di maggio, con le rose nei campi e i papaveri in fiore. Sorriso e queste poche parole. In questo posto lontano, in questo giorno che muore.